Friuli nel mondo, 225esima trasmissione dedicata agli emigrati. Le portatrici della Carnia. Una suggestiva cerimonia, unica nel suo genere, si è svolta il 18 giugno in Carnia a Timau, estremo borgo d'Italia. La consegna della Croce di Vittorio Veneto alle portatrici carniche, le valorose donne che tanta parte ebbero durante la Prima Guerra Mondiale nel rifornimento di viveri, medicinali e munizioni ai reparti attestati nelle soprastanti montagne del fronte di Monte Croce Carnico. Accompagnata dal perenne scroscio della cascata Il Fontanon, che scende spumeggiando dalle rocce di Pizzo Timau, l'austera manifestazione ha avuto luogo all'esterno del sacrario che accoglie le spoglie di 2000 soldati caduti, italiani e austriaci affratellati dalla morte, e quelle di Maria Plotzner-Mentil, che fu appunto una delle eroiche portatrici colpita dalla fucileria nemica mentre stava per raggiungere con il carico della sua gerla i nostri avamposti. Trasportata dagli alpini nel vicino ospedale da campo di Paluzza, Maria Plotzner-Mentil si spegneva col pensiero rivolto al marito in trincea sul Carso. Altre ancora rimasero ferite o con gli arti congelati. Negli oltre 50 anni trascorsi dalla fine del primo conflitto mondiale, nessun riconoscimento era stato dato alle portatrici di Timau, di Cleulis, di Paluzza e di altri paesi della Carnia che diedero un sostanziale contributo alla vittoria delle nostre truppe e che per la loro silenziosa quanto preziosa opera sono ormai entrate nella leggenda. Alla cerimonia erano presenti le superstiti, una ventina, pochissime altre sono emigrate nelle lontane Americhe, delle 200 di queste eroiche donne che sfidarono il freddo, i disagi e il fuoco nemico per raggiungere le trincee attraverso sentieri impervi e innevati che gli stessi muli stentavano a percorrere con le loro capaci gerle colme di quanto era strettamente necessario alla truppa. Ne mancava un sorriso di sposa, di fidanzata, di madre, di sorella, accompagnato da una parola di conforto e di speranza per sollevare il morale e alleviare nei soldati la tensione delle interminabili, malinconiche giornate trascorse nelle trincee di Palpiccolo, di Palgrande, del Freikofel e di tante altre. Accanto a queste superstiti si sono raccolti i ragazzi del 99, cui si deve l'iniziativa della doverosa manifestazione, e le popolazioni carniche, oltre che idealmente tutta Italia, per dimostrare loro la riconoscenza della patria. Ma osservando quel gruppo di donne, vecchie d'anni, di sacrifici e di stenti, dai volti che sembravano tutti uguali, non adusi al sorriso ma piuttosto alla mestizia, con la croce sul petto pesante forse quanto la gerla di allora e incorniciati dall'immancabile copricapo scuro, pensavamo, cari fratelli emigrati, alle nostre mamme, alle nostre donne del Friuli, che si tormentano ancora nella secolare odissea delle non mai terminate partenze di sposi e di figli alla ricerca di un lavoro in terre lontane. Nella speranza e nell'attesa di giorni sereni per la terra natale, vivendo ognuno accanto al proprio focolare, dopo una pur dura giornata di fatica, intendiamo rendere omaggio alle nostre donne con i versi che saranno letti da Ottavio Valerio. Donne di Carnia, di Mario Bozzolini. Macchie nere sul grigio color fondo dell'Alpe degli Abeti, grigiore di sempre sul chiuso delle gioie e del dolore, nel calmo seguitar dei rotolanti giorni dal tempo. Facce segnate a fondo come la roccia e salde, e come quella d'imperscrutabile età. O ingramagliate voi, donne di carne. Donne dal perdurante passo felpato su per il sentiero o per le strade assolate della piana. Voi curve al peso della vostra croce, croce di vita. Voi siete le formiche della madia e siete l'abbondanza nell'arida avarizia della terra. Voi donne che accendete il fuoco e la speranza del ritornare in chi vi sta lontano, del ritornare per riposare in pace tra voi, donne di Carnia. Lamento carnico di Giuseppe Rupil. 9 mesi. Nel ventre t'ho portato, sperando di darti una vita men dura di quella che ha reso tua madre un nodo d'angoscia. 9 mesi. T'ho cullato nel ventre, sognando di darti una casa, non solo di duri mattoni, ma calda d'affetti gioiosi. Nutrito ti ho con il mio sangue, pensando di darti una vita raccolta fra il verde di monti, di prati e dei primi ricordi. Nutrito ti ho, ma solo per darti una vita da spendere su terre straniere, per cogliere il seme d'un pane da porre su mani corrose d'attesa. T'ho dato una vita ricca solo di duro, silente lavoro, come bagaglio per il lungo, eterno tuo andare. 9 mesi nel ventre t'ho tenuto per darti soltanto quel nome di lotta che porti con sacrificio orgoglioso, emigrante. Staglion di Eddie Bortolussi. Disore, te chiamare, anche che stan, li svalisi sa son prontis, plenis come ognan, culis tassutis de robe cuside e lavade, robe mitude e fruiade, la vie palmont. Une man di squindon, e appoiatri mant 4 miluz di vignal rusings e boins. Perduz t'un chianton, dongi el spali dal plomp, cul mani de chiace e slusi dal martiel. La mari pestiale e va semplici dine cui sei scarpezza ponte, neris di vilut, e vi arz la vitrine, poi siare un scansel, anche il socur, al sissiare con quel. Ma c'è isalmo che spartica l'ingrope, che ste smare che si sinta l'ultim salut, che ste sgrife sul cure, che struscli, che gli emple la boce tal pues de peraule. Ah, partì de vandì, paltroi de taviele, sfantand l'iser ste rosade de gnot, cul chiantantic dal tiliment al cur, fer come la luz dal mont che si lasse. A me mari, di Vittorio Cadel, aviatore caduto nel cielo di Macedonia durante il primo conflitto mondiale. Mamma, il tuo nom, agliempla tutto il cor, d'una dolcezza e d'una suavità, che in tal clamati al par cal manchi il flat, al par da 9 vous pal nostri amor. Mamma, il tuo nom, al il profum d'un flor, tu e tu guarissi il mal con ciò bussat, tu e tu guarissi il cor sale malat. Mamma, femmina santa dal Signor. Quand il sorelli a sera al va a dormire devo riarbui, il mio pinseir currinta al torno, mamma, ai miei riquarz d'un dì. Il timpal passa e su di noi al singruma, ma il cor arresta giovin e ti sint a chianto c'han chiamò sulla mecuna. Parce a mi, Signor, di Leonardo Zanier, emigrato in Svizzera. Parce a mi, Signor, ogni anno a mi, Signor, che sta cros e che stvuit sora sera, resta tantin besola in che stiet grand calcricia. Mi spuei al scur, Signor, di paura di iodimi, Signor, e non mi tocchi la chiar, Signor, di paura di vai, di vosà. Gli hai cambiati l'insui, Signor, avevi il suo odor, il nesti odor, gli hai metus nes di che dal corredo. Ma il mio quarp, no, Signor, il mio cor, no, Signor, non può scambiaiu. Signor, mi ascoltaiso, Signor, mi ascoltaiso, Signor. Buonanotte, Tom. Pensimi. Sta ben. Scrive. Ven. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.